Una schiera di avvocati e professionisti sta per entrare in Parlamento e in gran parte già si conoscono tra loro. I deputati rieletti sono quasi il 60%, il 65% i senatori. Lo rivela un'indagine pubblicata sul numero di oggi del Sole 24 Ore. Con il 14% delle poltrone, i legali riconquistano la vetta della graduatoria delle professioni, persa nella scorsa legislatura. Balzano indietro insegnanti, operai e impiegati, che tra Camera e Senato perdono circa il 5% di presenze. In salita gli imprenditori, sono il 10,6% a Montecitorio e quasi il 12% a Palazzo Madama, 2-3 punti in più rispetto al 2006. Nonostante il cambio di maggioranza, resta più o meno invariato il numero dei politici di professione, che occupano il 13% degli scranni alla Camera e il 7,3% al Senato. E sono decisamente più rappresentati nella coalizione del Partito Democratico, un quarto dei loro eletti, contro il 5,2% di quelli del PDL. E nonostante la retorica da campagna elettorale, quello a venire non sarà il Parlamento delle donne e dei giovani. La quota di over 50, circa il 38% di Montecitorio e il 45% di Palazzo Madama, somiglia a quella delle Camere uscenti. E solo il 21% dei deputati e il 18% dei senatori sono signore. Medaglia del maschilismo al Movimento Autonomista di Lombardo, i cui 8 eletti sono tutti uomini. Francesca Malaguti, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.